pacifico, per nostra gran fortuna, possiede un flauto magico che tutti fa incantare. Se senti quella musica ti fa passar la luna e i tuoi bollenti spiriti di colpo fa calmar. E avanti al sole e al mare ti viene voglia di cantare. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, papà pacifico, papà pacifico. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, papà pacifico, magnifico papà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, le coppie che bisticciano lo vengono a cercare. Lui mette in fila i coniugi sotto il bel ciel sereno. Le mani su, stringetevi, comincia a comandare. Io mi proverò a suonare, voi provatevi a cantare. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, pa-pa-pacifico, pa-pa-pacifico. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, pa-pa-pacifico, magnifico papà. Fratelli discoli giocando a far la guerra, tre simboli agitavano ognuno del color. Siccome si picchiavano da rimanere per terra, il buon papà pacifico ragazzi disse allora: i colori siano tre, però insieme tutti e tre. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, papà pacifico, papà pacifico. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, papà pacifico, magnifico papà. Cosa importa se siamo ricchi o poveri, tutto è magnifico, papà pacifico. Pa-pa-pa-pa, tutto è magnifico, papà pacifico, magnifico papà.